Un restyling per la sala del consiglio comunale, tanti lavori importanti e anche una scelta altrettanto importante di esporre dell'arte al femminile. Sì, come amministrazione comunale abbiamo deciso di innovare la narrazione del palazzo di città, del palazzo comunale e in particolare della sala del consiglio comunale che simbolicamente, concretamente racchiude il senso di città. E proprio per questo abbiamo voluto da oggi, come primo passo, iscrivere anche l'arte al femminile nello spazio della sala del consiglio comunale. Da oggi inizia un progetto che si muoverà come una galleria, appunto, d'arte per dare voce alle artiste, voce alle donne, voce anche alle rappresentazioni di soggetti femminili che sono storicamente, insomma, anche stati nell'ombra. Per cui da oggi inauguriamo con due sibille, due meravigliose sibille di Elisabetta Sirani e in un progetto condiviso con la Pinacoteca che ci presta le opere all'interno anche di quello spirito positivo del nuovo sistema museale cittadino, ecco che a mano, nei vari mesi, insomma, avremo anche ospiti, autrici che come Elisabetta Sirani, come Lavinia Fontana e altre sono simboli di libertà, simboli di grande professionalità, di arte straordinaria che hanno incarnato e anche di libertà.